c'è del personale nelle strofe di questa canzone. C'è Simo X, c'è RK, c'è Outrack, c'è il buio che risiede dentro le persone. Il non capire le cose, perché il mondo gira così. Cammino sotto la pioggia, il temporale mi scoccia. Salvarmi le giornate non sono i libri di moccia. Mi attacco ad un'altra boccia, perlomeno i brutti pensieri se ne vanno via lenti, goccia a goccia. La vita è bella ma stronza, l'arte dell'autodistruggersi. Bomberman, ragazzo bomba, a chi non affronta, a chi perde la prima chance si inietta la seconda. Ne ho vista di gente perdersi nella stessa ombra. Volare in alto un prezzo caro, sarò lontano da ogni caro, controllando che il sentiero non sia amaro. Tu mi hai prestato le ali dicendomi vola chiaro, se lo sporcate perché ho vissuto da baro. Sapere di essere umano non vale il dolore, dispezzarti perché è morto un amico e con lui il tuo cuore. La speranza molla per ultima e non cambia l'umore. Se vivi sotto la luce è sempre eclissi di sole. Io sto vivendo in una bolla di vetro, non credo a niente, credo a quello che vedo. Scappo dai problemi come se fuggissi dal retro. Non so se mi spiego. Io sto vivendo in una bolla di vetro, non credo a niente, credo a quello che vedo. Scappo dai problemi come se fuggissi dal retro. Non so se mi spiego. Giornata nera, torno a casa sconvolto. Questa vita picchia, io devo incassare ed evitare ogni suo colpo. Ogni giorno metto sempre a dura prova il mio corpo. Magno i problemi nell'alcol così per un po' li scorpo. Ogni sera a letto cerco risposte alle mie domande. Se non do affetto è perché batoste ne ho prese tante. Quante persone stanno tra falsità e ipocrisia, sempre più arrivismo e sempre meno meritocrazia. Per la via c'è un ragazzo depresso, l'eroina che lo mangia come un cancro e la sua dignità è nel cesso. Mi crede fesso mentre mi sta giurando che ha smesso. Mi mente mentre mente per prima cosa se stesso. Io resto dalla mia e sento una voce che parla. Dice non mollare, io non posso certo scontentarla. Circondato da chi vale, resta tale, non cade. Non ha importanza se cade, ma il mio giudizio non cambia mai. Io sto vivendo in una bolla di vetro, non credo a niente, credo a quello che vedo. Scappo dai problemi come se fuggissi dal retro. Non so se mi spiego. Io sto vivendo in una bolla di vetro, non credo a niente, credo a quello che vedo. Scappo dai problemi come se fuggissi dal retro. Non so se mi spiego. Guarda gli amici che col tempo sono rimasti, poi guarda gli altri quelli che ci sono rimasti. Che se ci pensi la vita è una corsa in taxi, quando arrivi paghi tutti quanti i tuoi viaggi. Fuori perfetti, dentro depressi, troppi compromessi, mentira a se stessi. Siamo falsi, mascheriamo gli occhi pesti, perdi gli interessi, ti riempi di complessi. Libera, senza soldi, senza gli indumenti, i nostri amplessi davanti agli specchi. Per strade i lampioni si sono spenti. Sarà destino, saranno i miei sospetti. E la vita è fatta a scale, c'è chi scende, c'è chi sale, con l'illusione di essere immortale. Aspettare l'ascensore, evitare le scale. Preferisco il fiatone, preferisco sudare. Se io sto vivendo in una bolla di vetro, non credo a niente, credo a quello che vedo. Scappo dai problemi come se fuggissi dal retro. Non so se mi spiego. Io sto vivendo in una bolla di vetro, non credo a niente, credo a quello che vedo. Scappo dai problemi come se fuggissi dal retro. Non so se mi spiego. Cammino sotto la pioggia, sotto la pioggia. E non capisco, non capisco. E non capisco, non capisco, non capisco. Mai, mai, mai, mai, mai, mai. Mad Boys, Mad Boys, X-Tape, volume 2, volume 2, yo. Mad Boys 2012, 2012, 2012, 2012.